qua siamo, dobbiamo arrivare qua. Porca troia. Ma è foscolo, sì, vai in Vittorio. Di Vittorio. Di Vittorio. Sì. Se questa qui è via Gilletta è giusto. Io non so tre, chi sono pensando e non può le cazzo Mazzani da Mazzani Ammazzani nessuno. Cazzani, oh. Cazzani, cazzani. Pezzo. Pizzo. Pizzo, pezzo, pizzo. Cazzo di granaio. No. È quello lì di fianco. Questo qua? Sì. No, non quello lì, nell'altra piazzetta. Ah, ok. Prega per noi peccatori. Mezzo alla nostra morte, finché la morte non ci separi. Santa Maria, Madre di Dio, piena di Dio, piena di grazia, grazia con te, la grazia con te, tutti i signori della tua vita, della vitaccia, amen, ora pro nobis, gambit forever, super pro nobis, super pro nobis, gravit forever, Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Madre di Dio, prego dei peccatori, adesso è la nostra morte.